Dunque, bentornati su Poyo It, la trasmissione di letteratura di Radio Wombat. Stiamo per presentare Miti e Molotov, interviste su anarchia e narrativa, un libro scritto da Margaret Kiljoy e tradotto in italiano nel 2020 da Contrabbandiera Editrice. Abbiamo qua ospite oggi Andrea Simoncini della casa editrice Contrabbandiera. Ciao a tutte e tutti. Ciao Andrea, benvenuto. Dunque, inizierei leggendo la quarta di copertina di questo libro per introdurla un po', ovvero Margaret Kiljoy, scrittrice, musicista e attivista anarchica statunitense, autrice fra le altre cose della guida steampunk all'Apocalisse e fondatrice dello Steampunk Magazine, indaga la profonda relazione esistente fra anarchia e narrativa intervistando alcuni degli autori di fiction più significativi del nostro tempo. Assieme a loro riflette sull'influsso delle idee e delle esperienze politiche radicali nella letteratura di invenzione e sull'impellente necessità di dare spazio all'immaginazione nelle nostre vite, per rendere possibile un concreto miglioramento della società in cui viviamo. Questa è la quarta di copertina, sicuramente già esplicativa, c'è anche un elenco di nomi di autori intervistati che io non ho fatto, ma prima di tutto io ti vorrei chiedere una domanda un po', ti vorrei fare una domanda un po' aperta e generale, ovvero cos'è Contrabbandiera Editrice e appunto fra i vostri ultimi, nonché primi poi libri, c'è questo appunto Miti e Molotov e che libro è e chi è Margaret Kiljoy, oltre a quanto abbiamo letto adesso? Allora, sì, Contrabbandiera Editrice è un progetto editoriale che è nato da poco meno di un anno, che si occupa di editoria e di promozione dell'autoeditoria consapevole, ovvero si propone di fornire a chiunque lo volesse gli strumenti per autopubblicarsi senza così finire tra le grinfie della malvagia editoria a pagamento, che appunto ci proponiamo di un po' di contrastare fornendo le competenze e le nozioni base per comprendere quantomeno cosa c'è dietro al lavoro di pubblicazione di un libro. E, in questo senso abbiamo incontrato questo libro e abbiamo deciso di pubblicarlo anche perché, proprio perché affronta molti dei temi che ci corrispondono a partire proprio dal tema dell'autoproduzione e dell'editoria libera e indipendente come arma di cambiamento del reale. Abbiamo conosciuto gli scritti di Margaret Kiljoy perché era stata già pubblicata. Alcuni estratti di questo libro di Miti e Molotov erano usciti in italiano diversi anni fa ad opera di Ruggine, che è una rivista autoprodotta che circola negli ambienti di movimento e negli spazi occupati, e appunto pubblicarono questa in autoproduzione, pubblicarono questa alcune di queste interviste raccolte in questo libro, e così l'abbiamo conosciuta. E quando abbiamo aperto il progetto, ci siamo messi d'impegno per tradurre anche le rimanenti interviste e dargli la forma di libro vero e proprio. Questo libro nasce appunto dalla domanda che Margaret si pone di chi negli ambienti di contestazione, negli ambienti anarchici dell'autonomia, chi è che scrive narrativa? Cioè, mentre guardandosi intorno, ma anche noi guardandoci intorno, troviamo soltanto, non soltanto, ma per la Per lo maggior più. parte saggistica, libri di saggistica. Quello di cui si nota la mancanza è invece una produzione narrativa, che fa strano perché appunto proprio negli ambienti anarchici, proprio fra chi si domanda come migliorare il mondo o quale potrebbe essere una migliore forma di organizzazione di società, queste stesse persone dovrebbero essere le prime a elaborare, a immaginarsi prospettive differenti, futuri diversi. E quindi niente, da questa domanda lei parte la sua indagine e la sua fra chi scrive narrativa e si definisce anarchico e appunto compone questo libro. Ora Margaret, dico due parole sull'autrice Sì. perché se no non si capisce da dove le viene questo spunto. È appunto, come leggevi sulla quarta, è un'attivista statunitense che ha partecipato in prima linea al movimento di Occupy Wall Street di una decina d'anni fa o più, è stata la fondatrice di questo dello Steampunk Magazine, che è una rivista autoprodotta in cui appunto ha cominciato a pubblicare testi di narrativa, racconti brevi e saggi che un po' si rifacevano a questo movimento etico ed estetico dello steampunk, cioè un'ambientazione di ottocentesca, di una società pre o appena industriale, in cui però ci sono le tecnologie, esistono tecnologie moderne alimentate a vapore. E questo diventa un movimento etico, appunto, di conoscenza e utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici, e anche estetico, perché appunto si crea tutto un immaginario di scenografie, di strumenti e quant'altro da cui si produce tanta si produce un immaginario interessante E leggendo infatti il libro ha detto un sacco di cose sulle quali ti vorrei chiedere delle cose, direi le faccio una per volta. Lei cita, io ho avuto occasione infatti di leggerlo per intero, il libro dice chiaramente lo steampunk non è ovviamente soltanto occhialoni e dirigibili, nonostante poi il mondo mainstream tenda a vederlo esclusivamente in questa ottica estetica, ma va appunto molto, molto al di là di questo, dimostrando come in realtà quasi ogni forma culturale, ogni nicchia o narrazione tende a essere assimilata dal potere oppure ridicolizzata, e dialoga di questo molto spesso con gli autori e le autrici che intervista. Ma si propone di andare al di là appunto dei singoli generi, parlando di cyberpunk, steampunk, letteratura fantascientifica, letteratura direi to court. Sì, diciamo, anzi, riprendendo quello che è il titolo originale di questo libro, si intitola Mythmakers and Lawbreakers, il sottotitolo è Interviste ad Anarchist Writers on Fiction, Interviews with Anarchist Writers on Fiction, cioè parla di fiction, che ora in italiano è un po' poco traducibile, anzi spesso viene rilasciato il termine inglese, perché si tratta non nello specifico di fantascienza o fantasy per come sono codificati, ma di narrativa di finzione, narrativa immaginativa, che quindi comprende appunto sia dal fantasy alla fantascienza alle varie sottocategorie, per così dire, come ha citato lo del cyberpunk, lo steampunk di Margaret e di altri autori, però appunto il centro della questione è più la scrittura creativa, la scrittura capace di prospettare scenografie diverse, di prospettare futuri migliori. E se posso infatti intervenire in questo senso, proprio dalla prefazione scritta da Pink, si legge: non potremo mai vivere in mondi diversi e migliori se prima non li avremo almeno immaginati. Da sola la letteratura fantastica non crea la realtà, ma in qualche modo può ridefinire i contorni del possibile. Mi sembra assolutamente interessante e appropriata rispetto anche a quanto dicevi prima, di come la letteratura negli ambienti anche di lotta e di movimento tenda a essere poco considerata a vantaggio magari della saggistica o della letteratura realista, eppure invece la capacità di immaginare un mondo del domani sembra essere in qualche modo preliminare rispetto a ogni ipotesi di cambiamento che senza un orizzonte ha difficoltà a darsi. E questo stesso libro è stato presentato peraltro al Festival della Letteratura Sociale organizzato a settembre in Polveriera, dove si parlava anche di utopie e distopie, di come la gran parte delle narrazioni utopiche degli ultimi anni siano in realtà distopiche, e mi sembra che quasi stia cercando invece un'operazione, direi, positiva in questo senso. Sì, infatti, guarda, volevo citare a proposito un passaggio di Rick Dakan, che è uno degli autori intervistati da Margaret, a cui chiede cosa pensi che si possa ottenere scrivendo narrativa, e Rick risponde: sono cresciuto leggendo per lo più fantascienza e fantasy, ma da quando ho iniziato a scrivere cose mie, quasi tutto tende a essere legato al mondo reale. Anche se magari si tratta di aspetti del mondo reale a cui le persone non sono abituate, è realtà aumentata e in parte confina con la fantascienza. Ma per rispondere più direttamente alla tua domanda, penso che sia possibile rappresentare un mondo delle idee e dei modi di comportarsi e agire che il lettore potrebbe non conoscere tanto bene. Si apre uno squarcio su un altro modo di esistere, di pensare. Penso che sia questo che la narrativa deve fare nell'introdurre un messaggio politico. Ed è un po' questo il senso del tutto, appunto, fornire non delle risposte, non delle verità, come tende a fare un po' la teoria, la saggistica, a presentarti una verità o un'opinione netta e farci i conti, mentre invece la narrativa ti presenta una storia, ti presenta dei personaggi con cui puoi empatizzare, che non ti pone la verità, ti pone i loro dubbi, che quindi poi a quel punto sei in grado di fare i tuoi, di far diventare i tuoi dubbi. C'è un'altra cosa, Moorcock, un altro autore intervistato, dice: lo scopo delle mie storie è permettere ai lettori di decidere da soli quale atteggiamento morale avere. Cioè, appunto, il dubbio non viene instillato presentando la verità, ma viene presentata la storia e sta poi al lettore trovare la propria verità. Diciamo, la storia consente di far abbassare le difese del lettore e di confrontarsi con ciò che accade nella storia senza i filtri e i pregiudizi che invece di fronte a una verità, a un saggio, si pone in prima battuta. Se sei d'accordo, io starei ancora un attimo su questo e ti farei una domanda alla quale in realtà in parte hai già appena risposto, ovvero l'intenzione esplicita di fronte alle domande che vengono poste di tutti questi autori e autrici che sono intervistati è la volontà di incidere nel reale, di trasformare e cambiare il reale, l'utilizzo di una letteratura innanzitutto come occasione di porsi delle domande singolari. E poi anche in avanti di immaginare futuri possibili. Ti volevo chiedere in questo senso come gli intervistati dalla Killjoy rispondono a questa domanda, ovvero sulla possibilità della letteratura di trasformare il reale e come anche tu risponderesti a questo. Allora, sì, molti, cioè, alcuni danno più speranze, hanno più speranze, pongono più speranze, alcuni sono più scettici o disillusi, però tutti quanti battono sull'importanza comunque di immettere nel discorso comune tematiche o temi, questioni che incrinino un po' il già dato, e c'è chi lo fa con che punta tutto su ciò che scrive, su ciò che fa, ma la maggior parte di questi intervistati sono anche attivisti militanti nella vita reale o hanno pratiche di contestazione nel loro modo di vivere o modo di agire. Però sicuramente tutti quanti riversano la loro scrittura, le loro intenti e speranze di cambiamento, e appunto non è un caso che poi i temi che attraversano i loro libri, ma non solo, perché poi sono autori di sceneggiature, di fumetti, di videogiochi, lavorano per il cinema, quindi tutti quanti, pur non scrivendo libri tematici, cioè cioè non sono mai libri a tema, sono sempre vicende molto aperte in cui però si intrecciano questioni su dinamiche di potere, disparità di genere, le contraddizioni interne anche a realtà utopiche, immaginate, a società anarchiche, affrontano i temi della gentrificazione, dell'alienazione nella società. Quindi sono tutte tematiche prese da un punto di vista anarchico e quindi di critica all'esistente, che di fatto riescono a permeare la mentalità di un lettore, proprio perché sono storie che uno ascolta, che uno vive, esperisce in prima persona. E in termini più generici, invece, fra le domande ricorrenti fatte da Margaret Kiljoy agli intervistati, vi è il rapporto fra anarchia e narrativa, e come dice anche il sottotitolo del resto, e su come la narrativa influisce, oltre che nel reale, in senso lato, nella politica direttamente, cioè è fatta spesso questa domanda, e viceversa, e come la politica intervenga nella narrativa, oltre che qual è un rapporto fra autoeditoria e editoria mainstream, diciamo, e come si vivono anche individualmente le scelte diverse, singolari, diversi autori, le diverse autrici. C'è una lezione comune che si può trarre da questo libro, oppure la diversità delle risposte è proprio forse la lezione comune che da questo si può apprendere? Ma sicuramente la diversità è un tratto caratteristico, cioè più che un messaggio, più che un intento unico e chiaro, c'è un tipo di approccio che caratterizza questi autori, cioè un approccio non scontato, non compiacente di ciò che esiste, e poi ognuno declina a suo modo ciò che per lui è o per lei è anarchia e come questo si risolve nel vivere nella società e quindi nelle piene contraddizioni di una società neoliberista, capitalistica. Sul rapporto fra anarchia e narrativa, quasi tutti ribattono sull'importanza di scrivere storie, di produrre storie. Perché se anche sembra difficile poter incidere con le proprie storie sul mondo reale, è invece abbacinante riconoscere quanto le storie narrate dal potere, le storie che si fanno legge, che si fanno religione, abbiano determinato in maniera negativa le esistenze dell'umanità nei secoli e secoli. E quindi il rapporto fra anarchia e narrativa è un rapporto biunivoco perché vediamo autori che utilizzano il loro vissuto politico, la loro esperienza politica nella loro narrativa. E ci sono, e altrettanto ci insegnano come dalle storie si impari molto e si possa intraprendere una via. Edoardo Rialti diceva questa cosa, che spesso siamo più prendiamo più esempio da personaggi inventati, da storie fantastiche, che non da personaggi reali. Il nostro vissuto è più determinato da persone che non esistono nella realtà, che non. E quindi ecco, l'importanza, il valore e il rapporto che c'è fra anarchia e narrativa è forte e incisivo. È sicuramente vero, infatti, questo. Ricordo anche che la presentazione di questo libro è già avvenuta al Festival della Letteratura Sociale fatto a settembre in Polveriera e tu eri assieme proprio a Edoardo Rialti, Ero, sì, Edoardo Rialti e Pink, con cui abbiamo presentato il libro. si può riascoltare sul sito della radio, negli archivi per intero. E magari anche a quello rimandiamo, perché infatti era davvero una presentazione interessante, di cui dispiace non mettere qua degli stralci, ma era così complessa e anche così lunga e univoca, unica, che era davvero un peccato tagliarla. Piuttosto rimandiamo all'ascolto integrale. Ma siamo giunti più o meno a metà della nostra intervista presentazione, allora ti vorrei fare una domanda su un aspetto che hai citato prima, ovvero quello delle traduzioni, della genesi del libro, che appunto dalle collane di Ruggine è poi stato implementato ed è arrivato a diventare un libro intero, completo, con tutte le interviste fatte da Margaret Kiljoy nell'edizione originale statunitense. Leggo però nel frontespizio del libro un sacco di nomi: traduzioni di Emanuela Alonso, Virginia Bardoni, Sofia Cartuccia, Maria Micaela Coppola, Paola degli Innocenti, Regina Zabo. Già è parecchio singolare trovare così tanti nomi di traduttori in un traduttrici in un libro solo. E fra l'altro questo libro è anche entrato nelle classifiche di qualità della rivista Indiscreto proprio per i saggi in traduzione il mese scorso. Ci vuoi dire qualcosa delle traduzioni? Sì, diciamo che questo libro, proprio per il suo carattere segmentato di interviste singole e proprio per il fatto che già ne esisteva una piccola parte tradotta da Regina Zabo, abbiamo continuato con questo approccio affidando le diverse voci dei diversi autori intervistati a differenti traduttrici che appunto hanno fatto un lavoro splendido e va in gran parte a loro il merito del riconoscimento ottenuto dall'Indiscreto, che è una rivista online diretta da Francesco Disa. Che annualmente, no, credo 2 volte l'anno faccia pubblichi queste classifiche di qualità che sono redatte da un numero altissimo di autori, critici, giornalisti che circolano intorno all'Indiscreto e che stilano appunto queste classifiche, una cosa molto. E niente, sì, questo è un lavoro, quasi un lavoro collettivo, e tante sono le voci che parlano in questo libro e tante le voci che l'hanno tradotto più o meno. E a proposito di tante voci, ora noi abbiamo citato le traduttrici, abbiamo citato giustamente Margaret Kiljoy, ma non abbiamo e qualcuno degli intervistati, ma non tutti. Forse è il momento di dire chi sono le voci, quali sono le voci che hanno risposto alle domande di Margaret. Sì, sono una dozzina, si va da nomi ultranoti come Alan Moore, come Ursula Le Guin o Michael Moorcock, ad autori praticamente sconosciuti, chi per scelta, nell'anonimato o sotto nomi collettivi, chi per l'impermeabilità del mercato a prodotti così strani, chiamiamoli. Difficili da digerire per il mercato editoriale e si parla appunto del collettivo Crime Think, del professor Calamity, di Octavio Bonaventura o Starhawk, sono nomi che forse non vi dicono niente, a me io pure non conoscevo molti di questi nomi prima di aprire questo libro e sono stati invece una scoperta veramente felice. Non ho citato ancora Rick Dakan, Carissa van den Berg-Clark, Jimmy T. Hand, sono davvero tutti scrittori o scrittrici, ho detto prima anche autori di sceneggiature per film, fumetti, videogiochi. Ma un'altra cosa che arricchisce molto questo volumetto sono tre preziose appendici in fondo in cui Margaret raccoglie le biografie di numerosi altri autori e autrici che sono definiti anarchici. anche una lista di titoli suddivisi per tipologia, fra il romanzo che vede il protagonista anarchico a romanzi in cui l'anarchico è invece l'antagonista, romanzi che presentano società anarchiche, e compone stila queste liste che sono veramente, veramente utili e preziose. Peraltro è una lista recente e tuttavia immagino che ogni lustro forse dovrebbe essere aggiornata. Beh sì, conti fatti, questo libro risale la pubblicazione di questo libro risale al 2009, quindi sicuramente nel frattempo sono usciti tanti altri autori, è continuata il percorso della relazione fra anarchia e narrativa, e mi viene da citare alcuni autori che ho letto di recente, come Richard K. Morgan o Joe Abercrombie. Oddio, non so se si definiscano anarchici, però sicuramente come tematiche interne al loro libro, fra lotta di classe, lotta di genere, lotta alle discriminazioni, dinamiche di potere, c'è di tutto e sarebbe sicuramente interessante aggiornare queste appendici. Sì, fra l'altro questo libro e questi appendici vengono fuori da un lungo lavoro che Margaret ha fatto di ricerca insieme ad altri autori, alcuni protagonisti di questo stesso libro, che avevano raccolto avevano aperto un sito in cui censivano tutte le esperienze per persone e autori di narrativa anarchici, che adesso non mi ricordo a memoria, ma linko nell'articolo del podcast. Sì, sicuramente. Sicuramente, fra l'altro ti vorrei fare, anche se siamo un pochino in ritardo, un'ultima domanda, perché l'hai citata due volte e mi sembra un aspetto assolutamente interessante, quello della multimedialità. Parli di persone che non scrivono soltanto letteratura e che anzi talvolta si scansano parecchio volentieri dalla letteratura in senso classico, quella finalizzata alla produzione di un libro, per fare cose come sceneggiature di film, graphic novel, videogiochi, e sembra, anzi, no, non sembra, dicono anche di essere stimolati più ancora da questi nuovi media spuri, non storicizzati in qualche modo, nei quali la libertà espressiva forse ha un ruolo decisivo nel determinarne l'esito o qualcosa del genere. Sì, diciamo che ci sono, cioè, innanzitutto tutte le forme di arte approcciate con l'intento critico, con l'intento non banale, banalizzante, hanno un enorme potere di incidere e di essere portatori di questi di temi o di... Alcuni autori puntualizzano anche questa cosa, Rick Dakana ad esempio, il fatto che un mezzo espressivo come quello dei videogames, dei videogiochi, non sia assolutamente considerato nella cultura alta, a differenza della letteratura, e ciò ne fa un ambito chiuso. O di difficile accesso, invece nel videogioco, nella scrittura dei videogiochi, questo non essere considerata una forma d'arte, consente dei margini di manovra, molto più ampi, consente di concedersi di esprimere delle cose che forse, una casa editrice in un libro non gli darebbe spazio. E appunto riguarda tutte le forme di espressione artistica, e non per nulla la stessa Margaret, oltre che autrice, è una prolificissima musicista, ha attivi almeno quattro progetti musicali che io conosco. Abbiamo sentito un paio di pezzi dei Nomadic War Machine, che è il suo gruppo, non saprei neanche definirla come musica, come genere musicale, quindi vi invito a approfondire l'ascolto se vi ha incuriosito il pezzo di prima. Ma appunto suona nei Nomadic War Machine, suona nei Feminazgul, negli Aslarat e nei Vulgarité, e sono progetti musicali in cui riversa il suo spirito critico, le sue tematiche. Non per nulla insomma, il primo album dei Nomadic War Machine si intitola I Have a Gun, Give Me All the Money in the Register, cioè una pistola, dammi tutti i soldi che c'hai in cassa. Oppure c'è No Dawn for Men, Nessuna Alba per gli Uomini, e porta avanti la critica al sistema patriarcale con la musica. Quindi sì, la multimedialità o comunque il non darsi limiti nell'intento di raccontare storie e il messaggio. E Margaret Kiljaj, che fra l'altro è tuttora molto attiva su internet, sui social, ho fatto caso che autoproduce spesso, autocostruisce gli strumenti musicali stessi con i quali suona nei vari gruppi, quindi un approccio anche do it yourself nell'ambito della musica, oltre che nelle tematiche, anche proprio nella preparazione fisica di tutto questo. E l'autoproduzione come metodo e approccio per mantenere l'autonomia e piena libertà. Ti vorrei fare una domanda abbastanza personale, ovvero cosa a te ha lasciato in fin dei conti la lettura di questo libro? A me personalmente, ora, a parte aver fatto conoscenza con nomi che non conoscevo, e con un mondo, quello della scrittura di invenzione, che è vastissimo e da esplorare, a me ha lasciato una gran voglia di scrivere. Probabilmente il messaggio più che emerge più forte è quello di scrivere, di raccontare le proprie storie per non farsi raccontare da altri, e effettivamente tutti gli input e le esperienze degli intervistati in questo libro fanno veramente venire voglia di scrivere la storia. Mi sembra che sia efficacissimo, questo è vero anche per me. Piccolo appunto, fra le conclusioni che Margaret appone al libro, dice, chiude anzi l'intero libro dicendo: scrivete storie, ma ricordate, servono più giardini e meno centri commerciali. Quindi scrivete, ma non specializzatevi troppo. Un inciso, direi, molto importante. Non ci resta, anche perché stiamo andando lunghi, anche se sono davvero tante le cose che ti vorrei ancora chiedere, ma non ci resta che ricordare che il libro si può acquistare sul sito contrabbandiera.it, ma anche scaricare in free download, perché concordi con l'idea della divulgazione delle produzioni e contro al diritto d'autore, avete scelto una serie di libri che pubblicate di rilasciarli per intero gratuitamente. Sì, tutti i libri della collana principale di Contrabbandiera verranno rilasciati in Creative Commons per il download libero dopo un po' della pubblicazione, insomma, quando ce la raccattiamo e riusciamo a caricarli online. E oltre che allo shop, ovviamente, ritrovate il libro anche nelle librerie indipendenti e nelle distro degli spazi occupati. Ora, per adesso, lo abbiamo all'Emerson, lo trovate, o a Bologna, Modo Info Shop, sì. Bravissimo. Beh, conosciamo bene, anzi salutiamo se ci stanno ascoltando. Ci dicevi prima delle canzoni, ne abbiamo sentite due, del resto tutta la colonna sonora di questa puntata è per intero di Margaret Kiljaj. Cosa stiamo per ascoltare invece? Te lo suggerisco io. Stiamo per ascoltare We Feel No Shame, che è... Ah, bravo, grazie. È il terzo... Ho fatto una selezione di canzoni per mostrarvi un po' tutto il percorso di questo progetto musicale dei Nomadic War Machine. Questo che stiamo per sentire è dal terzo album, Every Breath Our Last, E questo è We Feel No Shame, non ci vergogniamo, non proviamo vergogna. E che dice un po' tutto del, è anche una canzone programmatica del movimento queer, possiamo dire così. So che state anche tramando per cercare di invitare la prossima estate Margaret qui in Italia a fare un tour musicale letterario, quindi speriamo di poterti ancora rinvitare e riparlarne presto, magari anche Vedremo, assieme a grazie. lei. Grazie intanto per essere stato qui con noi. Adesso We Feel No Shame di Margaret Kiljoy e poi ci risentiamo. The Nomadic War Machine. Dei Nomadic War Machine, dove suona Margaret Kiljoy, e ci risentiamo più tardi per il prosieguo della puntata di oggi. Grazie, Bella, Andrea. grazie a voi. Bella, Wombat. Wombat.